cervice, ma comunque mansueti ad un gioco velenoso. Vivono sperando in una sapienza che viene dal mondo e non dall'eterno. Ammaliati dai cattivi pensieri, ossessivi per una comodità che finisce. Servi di un padrone che è tiranno, sudditi del principe di questo mondo. Eccomi al bivio dell'esistenza, della libertà o della schiavitù. Sono libero perché credo nell'amore. Solo Dio domina senza prepotenza, solo Lui è capace di comandare senza infliggere. Dio rispetta la libertà di chi sceglie di rinunziare all'amore e di vivere nel fango. Se solo l'uomo sapesse com'è facile amare, com'è bello sciogliersi in un pianto di pentimento. E mentre soffia il vento della misericordia, scendono lacrime dal cielo e si tramutano in pioggia. Eccomi al bivio dell'esistenza, della libertà o della schiavitù. Sono libero perché credo nell'amore. Eccomi al bivio dell'esistenza, della libertà o della schiavitù. Sono libero perché credo nell'amore. Signore, che sei il solo Signore e non hai altri signori al di sopra di te. Che senso ha essere compreso dagli uomini? E non è detto che l'artista debba essere compreso. Della libertà o della schiavitù, sono libero.